cominci le seve sacriadiana, ove ciascuno di voi, in onor della dea, ha detto monar con la più forti belle. Vengo anch'io, cacciatrice. E che tu già mia cara facesti la tua caccia, fu quell'occhio di tua tenuto strale, e io fui ella. Il corpo tuo cinghiale. Qui non si fa l'amore, padron mio, e a la voi purità. Ho parlato, dottor, d'un barbala. Vieni, vieni, loro. Eccomi pronto. Al corno via l'affiatto. Ha della bel festangue.